Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci della nuova emigrazione. A tenerci compagnia nella prossima mezz'ora una puntata marcatamente anglosassone. Vi porteremo tra la West Coast americana e l'Australia, iniziando, pensate, da una tappa nel cuore della NASA, e vi racconteremo anche e soprattutto storie di rientro. Prima però il nostro doveroso omaggio a Valeria Solesin, la giovane dottoranda uccisa negli attentati di Parigi di 8 giorni fa. Valeria lavorava presso un centro di ricerche della Sorbona in Francia, viveva da 4 anni, studiava sociologia e si occupava di temi legati alla famiglia e ai bambini. Un attacco barbaro l'ha portata via. Qualcuno l'ha definita cervello in fuga, sicuramente era una delle figlie migliori di questo nostro paese all'estero. Per cominciare la nostra frase della settimana, copyright del presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone: c'è un legame fortissimo tra la corruzione e la fuga dei cervelli. Nei luoghi corrotti i ragazzi vanno via perché la corruzione è un sistema eccessivamente anticoncorrenziale. Quando un ragazzo di belle speranze si interfaccia con un certo ambiente, riceve un pugno in faccia dalla vita, dice. Per Cantone, la corruzione è un sistema che blocca il paese, la crescita e che causa pure la fuga dei cervelli. Fuga ovviamente incentivata anche dalla disoccupazione. L'Italia è il paese europeo col maggiore numero di disoccupati passati alla condizione di inattività economica tra il primo e il secondo trimestre 2015, lo rileva Eurostat. In Italia è diventato inattivo il 35% dei disoccupati, più del doppio della media europea. Chi non si rassegna guarda così all'estero, poi se a chiamarti addirittura la NASA. Se ne interessare, diciamo, al mio profilo, faccio praticamente 2 colloqui via Skype e da così praticamente ottengo il tirocino alla NASA. Roberto Carlino, 26 anni, è un ingegnere aerospaziale al lavoro a San Francisco. Della sua storia parleremo tra pochi minuti. Ora spazio al notiziario. Una flash per iniziare con la notizia che è stato giudicato ammissibile l'emendamento alla legge di stabilità che dovrebbe porre fine alla pasticcio sulla legge contro esodo. Secondo uno degli estensori, il capogruppo di AP in Commissione Finanze, Pagano, con questo emendamento si riuscirebbero a salvare non solo gli sgravi fiscali per gli under 40 previsti dalla legge 238/10, ma attraverso una specifica clausola di salvaguardia si salverebbero anche coloro che erano già compresi nel regime con scadenza alla fine del 2017. Vi terremo ovviamente aggiornati. Gli italiani emigrati all'estero sono sempre di più persone con alto livello di scolarizzazione, ma non sempre nei nuovi paesi di residenza trovano un impiego all'altezza delle competenze. E quanto emerge da un rapporto OCSE? In un decennio a cambiare è stata soprattutto la composizione dell'emigrazione. La percentuale di persone poco qualificate tra i connazionali emigrati verso altri paesi OCSE è scesa al 50%, mentre quella degli altamente qualificati è salita fin quasi al 20%. Destinazioni preferite: Stati Uniti, Germania e Francia. Se si considerano i soli emigrati con alto grado di scolarizzazione, in testa restano gli Stati Uniti, ma al secondo posto sale la Gran Bretagna e poi il Canada. Tra gli immigrati italiani, il tasso di occupazione nel 2011 era del 67%. Italiani espatriati nel 2014 sono cresciuti più degli stranieri residenti in Italia, più 155.000 gli immigrati contro più 92.000 tra gli immigrati. Il risultato è che il loro numero si è praticamente pareggiato, oltre 5 milioni. È il dato più eclatante del dossier statistico immigrazione 2015. E ora una storia positiva, quella di un professore universitario rientrato in Italia dalla Germania lo scorso mese. Si tratta del 36enne Antonio Montefusco, filologo e storico medievale, da anni a lavoro tra Parigi e Düsseldorf. A riportarlo nella penisola, l'Ateneo veneziano Ca' Foscari, che gli ha offerto una cattedra come professore associato in filologia medievale e umanistica, chiave di volta uno starting grant, finanziamento comunitario dello European Research Council, che lo stesso Montefusco si è aggiudicato. Lo abbiamo intervistato. Per me è una ricerca sull'Italia medievale, sulla tradizione della letteratura italiana, sulle lingue che si sono praticate in Italia, ed anche una ricerca che ha come obiettivo quello di mostrare come nella nostra tradizione ci siano stati dei momenti di grandissima avanguardia intellettuale. Quindi credo che in generale anche il tema mi ha portato effettivamente a valutare quanto fosse importante che queste cose venissero studiate direttamente in Italia, chiaramente all'interno di una rete internazionale. Dall'estero mi porterò una rete, diciamo, di conoscenze, di contatti, un modo di lavorare e soprattutto di discutere che mi sembra invece tutto sommato meno praticato in Italia e che può essere molto importante da un punto di vista scientifico. Credo che l'università italiana deve vivere un momento di confronto e di competizione con le università essere il più possibile costruttivo e ricco. Quindi rientrare dopo un'esperienza estera per un ricercatore è molto importante anche da questo punto di vista, perché non si debbono tagliare i rapporti, ma anzi rafforzarli dalla nuova posizione all'interno dell'Italia. Nuova edizione del premio Laurea alla UNESCO per le giovani ricercatrici. Quest'anno il valore di ciascuna borsa di studio sale a 20.000 euro. Le candidature potranno essere presentate fino al 19 gennaio attraverso il sito forwomeninscience.com. Via la quinta edizione di Build the Future, programma internazionale di reclutamento di Prismian Group. L'azienda è alla ricerca di 40 giovani neolaureati in ingegneria e economia che abbiano realizzato una parte del proprio percorso formativo all'estero. Termine per le candidature fine dicembre. Infine, rilanciata l'iniziativa Invest Your Talent in Italy, promossa dal Ministero degli Esteri per supportare le strategie di internazionalizzazione attraverso la possibilità di avvalersi di talenti stranieri formati in Italia con competenze nei settori di operatività dell'azienda. Tutte le info su investyourtalent.esteri.it. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci riporta nel cuore della Silicon Valley. Stavolta però usiamo la California come trampolino di lancio per proiettarci fin nello spazio. Nome: Roberto. Cognome: Carlino. Età: 23 anni. Città di origine: Napoli. Studi: ingegneria aerospaziale. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2015. Per andare dove? In America, California. Perché? Per migliori opportunità di lavoro. Quale lavoro svolgi attualmente? Ingegneria spaziale. Dove? La NASA Ames in California. Tornerai? Beh, non credo. Sicuramente magari non nel prossimo futuro. We've been on the run, driving in the sun, looking out for number one. California, here we come, right back where we started from. Oh, hustlers, grab your your shadow weighs a ton, driving down the 101. California, here we come, right back where we started from. L'essere stato rifiutato dall'Italia è stata la cosa migliore che mi sia mai capitata nella vita. Partiamo da questa amara e solo apparentemente paradossale constatazione, Roberto. Con eguale spirito di provocazione io ti chiedo, dobbiamo pure ringraziarla adesso, questa Italia che fa scappare i suoi migliori giovani all'estero? Sicuramente l'Italia la ringrazio per la cultura, l'istruzione e l'opportunità di aver avuto un buon percorso di studio. Però allo stesso tempo critico molto il sistema, il governo che esiste in Italia, visto che poi le brillanti menti praticamente non trovano occupazioni soddisfacenti. Ho sempre avuto un unico obiettivo, laurearmi al massimo e realizzare il mio sogno. Sintetizzi così, Roberto, il periodo di studi in ingegneria aerospaziale a Napoli. Cosa ti ha portato su quel percorso formativo? Ho iniziato a sognare lo spazio già da quando ero praticamente un bambino. Ho praticamente iniziato leggendo libri di astronomia, vedendo documentari sull'astronomia, e poi l'interesse è stato rafforzato alla scuola superiore con la mia professoressa di astronomia e scienze praticamente. Già dall'università approfitti di esperienza all'estero in Olanda presso l'Università di Delft e a Bruxelles presso il Microgravity Research Center. Quanto quelle esperienze si sono poi rivelate decisive nel forgiare la tua carriera futura? Le esperienze all'estero io credo siano veramente indispensabili per la formazione professionale di una qualunque persona. E a 23 anni ti ritrovi giovanissimo, laureato, con 110 lode e menzione particolare della commissione. Faccio questa premessa perché è importante. In un paese normale avresti avuto la fila di aziende pronte a corteggiarti fuori dalla porta di casa, e qui però no. La realtà spesso è molto diversa da come te la immagini, rifletti tu in modo amaro. Quante risposte e di che tipo hai ricevuto alla raffica di curricula che hai spedito immediatamente dopo la laurea? Risposte veramente pochissime, in realtà. La maggior parte pensa non mi degnava neanche di un'email di risposta. Poi è normale. Alcune sono state... È normale questo. Non tanto. Non tanto, eh. Almeno diciamo una risposta negativa, diciamo un'email di risposta. All'estero rispondono? Sì, all'estero rispondono. A questo punto ero entrato in crisi, tu ricordi, e decidi di partire per 6 mesi, lontano da tutto e da tutti. E più lontano di così non si può, perché dove vai? Vado in Australia, all'avventura, alla ricerca di nuove esperienze di vita praticamente. Studio e lavoro, no? No, più che studio è più, diciamo, il lavoro. Vivo a Sydney per 4 mesi e mi mantengo lavorando come cameriere e barman. E poi viaggio praticamente altri 4 mesi tra Australia, Nuova Zelanda e Thailandia. Così, al tuo rientro dall'Oceania, forte anche di questa esperienza, trovi un'occasione interessante, un master di secondo livello a Roma che, vieni a sapere, offre importanti collegamenti con le principali aziende italiane ed europee nel settore. Ti iscrivi. Apro e chiudo un'importante parentesi. Quale voto dai alla qualità dell'istruzione in Italia tra università e master successivo? La più grande amarezza è che l'istruzione italiana, a mio parere, è una delle migliori al mondo. Cioè, dopo anche averlo confrontato con con le altre università straniere in cui ho frequentato, in cui ho avuto esperienza. Il problema principale è che manca la pratica, l'esperienza in azienda da parte degli studenti, che è fondamentale per me per avere successo come ingegnere. Il vero punto di svolta della tua seconda esperienza di studio, ma lo scoprirai solo successivamente, rappresentato da un viaggio in California in visita alle più importanti aziende spaziali americane. In quell'occasione passate anche dalla NASA. E cosa presentate? Presentiamo un lavoro di gruppo per disegnare una costellazione di satelliti in orbita attorno alla Luna per consentire costantemente la telecomunicazione al fine di esplorazione umana della Luna. Giovani Talenti si ferma per un attimo, ci sono strade in diretta, noi torniamo subito. Giovani Talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Roberto Carlino, 26enne ingegnere aerospaziale al lavoro presso la NASA in California. Quella di Roberto è davvero una storia paradigmatica ed emblematica di cosa non funziona in Italia. Laureato col massimo dei voti, con un master, vede il suo percorso nel bel paese senza sbocchi. Rifiutato dalla penisola, finisce così, giovanissimo, alla NASA. Serve aggiungere altro? Riprendiamo l'ascolto. Giovani Talenti. A rientro in Italia avvio uno stage in una delle maggiori aziende di servizi satellitari nella penisola, tirocinio non pagato. Qui un tuo commento a margine nella lettera che hai inviato a giovanitalenti@radio24.it mi incuriosisce. La dinamica con cui si viene assegnati alle varie aziende per il tirocinio è tutto tranne che imparziale. In che senso? Beh, vabbè, non voglio iniziare una lunga polemica, quindi non mi dilungo su questa storia, però ti dico solo che non è concessa molta scelta per il tirocinio nelle aziende. Nel senso che scelgono loro o nel senso che alla fine le logiche sono un po' strane? Diciamo che un po' tutte e due. Diciamo che tu in realtà comunque dai una preferenza, però poi sono loro che scelgono in ogni caso. C'è qualcosa che insomma non ti ha convinto, ho capito. A questo punto il tuo futuro comincia a camminare su binari paralleli. Il primo è figlio di un azzardo, tentar non nuoce, così invii il tuo curriculum proprio alla NASA, forte anche dell'esperienza californiana. Sostieni due colloqui via Skype. E cosa succede? Dopo aver mandato il mio curriculum iniziano a interessare, diciamo, al mio profilo, faccio praticamente due colloqui via Skype e da così praticamente ottengo il tirocinio alla NATO. Tra l'altro tirocinio ottimamente pagato, perché quando pensiamo a tirocinio in Italia pensiamo a qualcosa di gratuito, lì no. Sì, esatto, no, qui è un po' più che... Diamo un'idea, senza entrare nei dettagli. Beh, allora, ti dico, beh, comunque qui la vita in California, in Silicon Valley, è veramente carissima. Però, beh, sono, diciamo, intorno ai, diciamo, quasi 3.000 dollari. Quasi 3.000 dollari per un tirocinio. Il secondo binario è quello italiano, col tuo tutor che temporeggia, quando gli chiedi conto delle tue prospettive future di carriera, aspetta, non so, insomma, e via dicendo, ti dice. Il paradosso, appunto, si verifica quando la NASA ti invia la proposta di tirocinio. Dall'Italia, cosa ti offrono? Diciamo pure per pareggiare dopo uno stage, ricordiamolo, gratuito. La cosa più assurda è che appunto dopo il tirocinio in questa azienda spaziale italiana praticamente non ho ricevuto neanche un minimo di considerazione, dopo neanche un grazie, arrivederci dopo il tirocinio. Penso addirittura, mi ricordo che il mio tutor mi evitava quasi pur di non affrontare il discorso. Infatti sta di noi in azienda con i miei colleghi scherzavamo che lui scappava, che mi evitava nei corridoi per pur di non parlarmi, per non affrontare il discorso. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno tutti. Insomma, da un tutor che scappa per dirti che alla fine non c'è nessuna possibilità in Italia, tu dici, beh, se ripenso al fatto che a distanza di pochi giorni ero stato accettato dalla NASA mentre venivo rifiutato in Italia, a quel punto l'idea di andarmene non poteva che risultare un pensiero definitivo. In California approdi a febbraio, tra l'altro, di quest'anno. Di cosa ti occupi e in quale ruolo ora? Sono ingegnere spaziale, quindi mi occupo di missioni spaziali. In realtà, beh, fin dall'inizio ho avuto un programma principale, un progetto principale che è creare un'applicazione web da usare al centro NASA, dove mi trovo, che praticamente serve per calcolare sistemi e budget di telecomunicazioni per le missioni spaziali, quindi per satelliti e su interplanetarie. E poi niente, oltre a questo ho sempre, diciamo, lavorato altri progetti diversi. Qui tutto funziona in maniera completamente diversa e meglio, consideri. Quali sono i punti che fanno realmente la differenza, sia a livello di colleghi di lavoro, sia a livello di servizi forniti? Sicuramente una differenza proprio sostanziale è il rapporto con i colleghi. Qui sono tutti disponibilissimi, umilissimi. In un'intervista hai dichiarato: mi chiedo che senso abbia spendere in un sistema universitario di qualità e poi fare di tutto affinché a trarne vantaggio siano altri paesi. C'è chi dice che non si debba parlare di fuga ma di mobilità dei talenti. Tu come la vedi? Ma guarda, magari è vero, qui magari ci rimango il giusto tempo necessario per acquisire nuove esperienze e formazione professionale. Il problema è che magari dopo tanto tempo che uno vive all'estero è difficile poter cambiare completamente la vita e tornare in Italia. soprattutto poi se vivi in un paese in cui che funziona bene e che ti rende felice, in cui sei felice. Insomma, per sintetizzare, da mobilità rischia poi di diventare una fuga vera e propria. Esatto, sì. Ma cosa ti scrivono decine, se non centinaia, di colleghi rimasti in Italia? Cosa ti chiedono soprattutto? Perché anche questo è molto importante. Purtroppo, guarda, veramente tantissimi hanno scritto per sapere come poter fare un tirocinio alla NASA, comunque per lavorare in America. Purtroppo la situazione qua, è almeno al centro NASA dove mi trovo io, è abbastanza sempre più difficile per fare tirocini. In particolare la parte dell'Italia. L'Italia deve firmare ancora un contratto importantissimo per poter fare tirocini, programmi di tirocini con la NASA. E tutti sono più o meno nella situazione in cui ti trovavi tu, poco prima di partire? Sì. Roberto, domanda di rito, come vedi l'Italia dall'estero, cosa c'è che non va e una proposta concreta da cui ripartire? Ti devo dire, da qui non lo so, mi sembra sempre peggio l'Italia. Il problema secondo me, non lo so, è radicato nella società, nella mentalità degli italiani, che non collaborano tra di loro, pensano sempre di fare troppa competizione in maniera negativa. Una proposta sicuramente banale ma efficace secondo me è che sicuramente bisognerebbe investire molto di più nei giovani. Sono sempre più convinto che il problema principale è distruzione dell'educazione, quindi investire nell'università e nella ricerca dovrebbe essere praticamente la prima cosa che un governo in crisi dovrebbe fare. Purtroppo non siamo riusciti a metterci in contatto per un imprevisto con Euroavia Napoli, dovevano essere i nostri ospiti, un po' anche per commentare le prospettive per chi, come te, studia ingegneria aerospaziale. Li ringraziamo comunque della disponibilità e con te, Roberto, domanda finale di rito necessaria a questo punto. Quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando, tra le varie vie di uscita, a un espatrio? Per me l'esperienza di vita e lavoro all'estero è indispensabile, quindi se una persona, un ragazzo, una persona che si trova in difficoltà a trovare lavoro in Italia, beh, sicuramente gli consiglierei di guardare l'estero e magari appunto non andarsene troppo lontano, in modo da mantenere il contatto con l'Italia e magari un giorno appunto ritornare in Italia, sperando che questa crisi e le condizioni cambiano. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo: una manager esperto in sostenibilità per la European Aluminium Foil Association con sede in Germania, scadenza per CV 30 novembre, candidature a recruiting.alufoil.org. Un assembly engineer con esperienza come ingegnere meccanico al progetto comunitario ITER con sede a Saint-Paul-de-Durance in Francia, scadenza per CV domani, info su iter.profils.org. E infine un professore in ingegneria dei trasporti all'Università di Aalto a Espoo in Finlandia, scadenza per CV 31 dicembre, info su aalto.fi. Siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova emigrazione professionale, dalla costa americana del Pacifico, dove siamo stati fino ad ora con Roberto Carlino, a quella australiana. Proprio il paese oceanico continua ad essere meta dei sogni di migliaia di giovani connazionali in cerca di un approdo lontano, ma con forti tratti europei, o meglio, anglosassoni. Molti i libri scritti in proposito per orientare chi prepara lo sbarco in Australia, tra loro anche Angelica Giambelluca, autrice di Ricomincio da Sydney. In questo libro racconto i motivi che mi hanno spinto ad andarmene soprattutto, e poi che cosa ho fatto lì, quindi come sono riuscita a trovare il primo lavoro, il colloquio, come sono riuscita a trovarmi una casa. E quindi in questo libro racconto un po', accompagno un po' il lettore che si trova magari già lì o che voglia invece di espatriare, di andare in Australia, lo accompagno un po' attraverso tutte quelle che sono le grandi tematiche. E immagino tu darai anche dei consigli, questo è importante, racconti esatto. La tua storia, qual è il consiglio o i consigli principali a chi vuole andare a vivere in Australia? Mettersi in gioco, spogliarsi proprio di tutto, no? Magari sei un grande giornalista, sei un ingegnere, sei un super diplomato, laureato. Se vuoi partire, se vuoi espatriare, ti devi rimettere in gioco. Questo vuol dire anche ricominciare da zero, anche facendo lavori più umili, non importa, perché è la chiave per entrare. Però quindi, a livello, ecco, poi di opportunità pratiche, di burocrazia, è facile o difficile costruirsi un percorso in Australia se sei giovane? No, se sei giovane hai tanta buona volontà, conosci l'inglese, perché è importante anche questo, non è più come una volta, è importante anche partire con una buona base di conoscenza della lingua, poi una volta che sei lì, mettersi in gioco, tenere duro e si può riuscire. La burocrazia è un'altra cosa rispetto alla nostra, è molto più snella, è molto più agile, se sei in gamba, se vedono che sei in gamba il contratto te lo fanno, ecco, non è questo il problema. C'è il discorso poi delle sponsorizzazioni, lì però si va un pochino più nello